11:15 di questo martedì 15 settembre torna in onda una nuova puntata di Parole Ribelli con qualche minuto di ritardo, ma insomma l'info si è giustamente prolungata con una serie di approfondimenti, quindi torniamo in onda e do il buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Questa settimana di nuovo puntata in solitaria, insomma la scorsa settimana c'era Eddie a tenervi compagnia, fortunatamente oggi manca lei, ma insomma per cause più felici di quelle che mi hanno impedito di essere qua la settimana scorsa, quindi ritorno sulle frequenze in questo clima un po' autunnale di oggi. Vi lascio ancora in compagnia per qualche minuto della sigla, poi vado a presentarvi la puntata di oggi. E come sempre vi ricordo anche i contatti di Radio Blackout per chi vuole scrivere o telefonare nel corso delle trasmissioni. Il numero del telefono cellulare è 346-667-3263, mentre per il telefono fisso potete telefonare allo 011-249-5669. Allora, prima di iniziare con la puntata, approfitto delle libere frequenze di Radio Blackout per mandare un saluto e un abbraccio a tutti i compagni e le compagne che si trovano ancora privati della propria libertà, in particolare a Donato che è ancora rinchiuso al carcere delle Vallette ormai da un paio di settimane. È stato arrestato insieme ad altri 5 compagni per la manifestazione torinese Mai con Salvini che si è tenuta appunto nella nostra città alla fine di marzo. Donato è ancora insomma l'unico recluso alle Vallette, gli altri sono stati trasferiti ai domiciliari, ma questa mattina hanno l'appuntamento col Tribunale delle Libertà, quindi ne approfitto per mandare anche da qui un augurio al che li possiamo rivedere al più presto tutti quanti liberi. Quindi un saluto a Donato, a Cecca, a Luca, a Damiano, a Nicola e a Mattia. Allora il prossimo pezzo lo mando per loro, sperando di tornare presto assieme a disegnare mappe di libertà. A tra poco. Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio di triti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mi mettono paura, prendi assalti. Prendi questa bad hip hop. La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri ritorsioni. Ma bisogna avere fede e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre buono minorile in rete. Di chi fidarsi qua? E quella guardia, con quella paletta in mano, chi è sua santità? Via veloce, vago, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto, gnacco 0,5%. Chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, siete si esce di qua. Siete si esce da queste mappe della città, siete si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate, solo qui quartiere, ce ne saranno 20, un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco, bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare il naufragio, a volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce, ti sbattono in galera che sei un'anima bella, diventi un corpo inanimato in cella. Ricordo Aldo Bianzino, era un falegname nel suo casolare, a chi faceva del male come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni, questa è gente che io voglio come compagni. Con la forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, e strada ogni volta si rinnova in attesa. La libertà. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, e strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni. Siete si esce di qua, siete si esce da queste mappe della città, siete si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. La libertà dove sta? La trovi nella mappa, non restare tra la gente distratta, puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa, o resti tra la gente distratta, la città ogni giorno si rinnova, ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova. Allora 11:23 sulle libere frequenze di Radio Blackout, andiamo a vedere gli argomenti della puntata di quest'oggi con Parole Ribelli. Inizieremo con alcuni aggiornamenti sulla situazione di Palazzo Nuovo, con cui ci eravamo lasciati all'inizio dell'estate, con l'Ateneo chiuso per la vicenda dell'amianto che si protrae ormai da diversi mesi. Ieri sono usciti alcuni aggiornamenti che sicuramente non fanno ben sperare né far stare troppo tranquilli rispetto la gestione, insomma, di questa situazione, ma di questo parleremo tra molto poco. E andremo poi invece a dare qualche aggiornamento su, per quanto riguarda la situazione nazionale. Sentiremo i compagni e le compagne del collettivo universitario autonomo di Palermo, innanzitutto perché pochi giorni fa hanno dato vita a una nuova occupazione in città, un nuovo studentato che appunto andrà a dare un tetto a molti studenti, quindi ci faremo raccontare di questa esperienza, e con loro commenteremo anche l'assemblea nazionale dei collettivi universitari che si è tenuta proprio a Palermo alcuni giorni fa in vista dell'autunno, che è andata a discutere di questo progetto ipotetico, ma a quanto pare ormai all'orizzonte, di una riforma della cosiddetta buona università da parte del governo Renzi. Questo è più o meno quanto. Ricorderemo poi una serie di appuntamenti, in particolare quello con la carovana femminista che in questi giorni sta facendo tappa a Torino, un appuntamento sicuramente interessante di cui vi dirò di più più tardi. Io allora vi lascio ancora un pezzo, poi iniziamo con la puntata. Faccio rap effetto dalle retrovie, sopra melodie su un suono elettro con parole mie. due file dietro l'avanguardia, sicuro non se sbaglia, semo l'asso nella manica in battaglia. Copro il silenzio con l'arcore, la fanteria si muove di nascosto nella notte quando piove, col sussurro delle nostre suole teniamo ritmo nella mente, cercando le parole per le nostre storie. La storia è scritta con il sangue, io scrivo le mie rime col calore della gente, mia falange, la prima fila spinge, chi sta dietro stende lance, con il sole che ci bacia sulle guance, guance, sul palco come alle Termopili, in cinque contro mille stronzi, casse rotte, sempre fermi immobili, i tuoi attacchi vanno a vuoto sempre, perché sul palco non c'è trucco, e se capisce se non vali niente, nome in codice e spacca ossa, intorno al disco le transette, da adesso in poi sto posto è zona rossa, sopra il palco con la viso mossa, pensando studi e manganelli, soltanto con il rap è roba nostra, nome in codice e spacca ossa, intorno al disco le transette, da adesso in poi sto posto è zona rossa, sopra il palco con la viso mossa, pensando studi e manganelli, soltanto con il rap che è roba nostra. La scintilla nell'oscurità, nel mirino del cecchino ci sta il rap e tutta la sua dignità, ma la mia squadra agisce come un uomo solo, e il povero cecchino manco fa rumore quando cade al suolo. Estratti tutti i giorni solo a questo, sempre lo stesso gesto, sempre lo stesso gesto, sempre lo stesso gesto, fino a quando non diventerà perfetto. Pazienza, pratica, allenamento, sopra il tempo, rallento il mio respiro per ridurre il battito, in addestramento tattico, attuo questo schema classico, adatto per fare sta roba, silenzioso come in cobra, metto il plastico sotto a sto rap che va de moda, in prima fila non si arretra mai, che siano botte de mortaio, calci de muay thai, vai, vai, te callo forte, Giappone contro le Hawaii, pronto alla morte, fratello tu chiamami samurai, nome in codice e spacca ossa, intorno al disco le transette, da adesso in poi sto posto è zona rossa, sopra il palco con la viso mossa, pensando sugli e manganelli, soltanto con il rap che è roba nostra, nome in codice e spacca ossa, intorno al disco le transette, da adesso in poi sto posto è zona rossa, sopra il palco con la viso mossa, pensando sugli e manganelli, soltanto con il rap che è roba nostra. Allora, 11:27, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Come vi anticipavo poco fa, iniziamo con la situazione di Palazzo Nuovo, con cui appunto ci eravamo lasciati prima dell'estate, dopo la chiusura dell'Ateneo avvenuta in primavera sulla vicenda dell'amianto. Tutta la questione sembrava essersi un po' sgonfiata, in particolare sul sito ufficiale dell'Università di Torino. Campeggiava ormai da alcune settimane un avviso che garantiva che per la fine di questo mese, in particolare dal 28 di settembre, l'edificio avrebbe riaperto, permettendo quindi una ripresa più o meno regolare delle lezioni del nuovo anno accademico. Se non che ieri pomeriggio abbiamo preso che appunto nella giornata di ieri, lunedì, si è svolto un consiglio di dipartimento di studi storici, quindi di quelli ospitati all'interno di Palazzo Nuovo, nel quale è emerso che in realtà Palazzo Nuovo non riaprirà i propri battenti il 28 di settembre e che a questo proposito sia stata infatti convocata una riunione straordinaria per il 17 di settembre, in cui capire un po' il da farsi. Insomma, la questione è stata portata fuori dai rappresentanti degli studenti che erano presenti all'incontro e insomma da lì si è sollevato un po' un polverone, perché appunto era stata garantita una riapertura, quest'ora con le lezioni già calendarizzate rischia quantomeno di mettere un po' in difficoltà tutto l'apparato. E insomma, se già dall'inizio la gestione di questa vicenda dell'amianto non era stata proprio delle più cristalline, sicuramente da parte dell'amministrazione dell'Ateneo c'era stato tutto fuorché quello che poteva essere insomma un doveroso insomma doverose spiegazioni e aggiornamenti costanti verso gli studenti e lavoratori che frequentano Palazzo Nuovo, ecco, quest'ultimo caso sembra confermare questo atteggiamento. Ovviamente dopo che la notizia della non riapertura è iniziato a circolare, sono comparsi i primi articoli sulle testate locali online, l'università si è affrettata un po' a fare qualche passo indietro, a cercare di gestire la situazione, garantendo che in realtà una parte dell'Ateneo riaprirà, in particolare l'atrio e alcune aule appunto del primo piano, ma per la maggior parte delle altre aule del primo piano che avrebbero appunto dovuto riaprire il 28 settembre, invece i lavori di bonifica a quanto pare si stanno prolungando e quindi al momento non è dato sapere se e quando torneranno agibili. Questo, come potete immaginare, insomma, causa molti problemi, immaginiamoci per gli studenti che si apprestano a iniziare il nuovo anno accademico, che magari devono arrivare da altre città apposta per l'inizio delle lezioni e che al momento non hanno, insomma, alcun tipo di garanzia davanti a sé e che soprattutto si ritrovano, insomma, fin dall'inizio a capire quanta poca, insomma, fiducia e attendibilità possa essere data verso chi sta un po' gestendo questa vicenda dell'amianto e che aveva garantito appunto trasparenza, di cui però ne abbiamo vista poca finora. Staremo a vedere, insomma, cosa emergerà da questo incontro straordinario del 17, chissà che qualcuno, insomma, non vada un po' a chiedere nuovamente conto al rettore Aiani di che cosa sta succedendo dentro la nostra università, quindi anche su questo, insomma, andremo certamente a dare aggiornamenti nelle prossime settimane per capire un po' che ne sarà e se ne sarà di Palazzo Nuovo. E in relazione sempre appunto alla sede di via Sant'Ottavio, un'altra notizia ha occupato, insomma, qualche spazio nelle cronache locali degli ultimi giorni, in particolare per quanto riguarda la libreria della Celid che si trovava al piano interrato e che, insomma, chiunque abbia frequentato Palazzo Nuovo sicuramente ha conosciuto. A quanto pare la cooperativa che gestisce questa sede è fallita e quindi tutti i dipendenti, si parla di 11 persone, sono a rischio di licenziamento collettivo e sui conti in rosso della cooperativa ovviamente pesa la chiusura di questi ultimi mesi di Palazzo Nuovo. Insomma, non è difficile immaginare che con una sede che comunque prima o poi è destinata a riaprire, quello spazio adesso farà sicuramente gola a qualche altra sigla, a qualche altra libreria, magari privata, che andrà a fare lauti affari sulla pelle degli studenti. Sappiamo che quello dei libri di testo è un business assolutamente molto redditizio, quindi appunto non è difficile immaginare che quello spazio probabilmente ci siano già molte mire per andare a sostituire appunto quella che è appena fallito, ma anche su questo, insomma, staremo un po' a vedere. Appunto, finché l'Ateneo è chiuso è difficile, insomma, avere un po' il polso della situazione, ma rimarremo sicuramente aggiornati. Io adesso faccio una breve pausa musicale, poi proseguiamo con gli approfondimenti invece sul piano nazionale. Nel sole sulla mia città e mi dona l'energia per fare tutto anche se non mi va. Ho giusto il tempo di un caffè e poi si va. Giusto il tempo per inquadrare bene la realtà. Una volta sognavamo l'America, adesso basta un posto dove vince chi merita. E in giro vedi gente con la faccia da isterica che parla dei cazzate, dei complotti e dei misteri. Che qua pensarci bene so il problema minore. Qua manca calore, qua serve l'amore. Oggi penso al mio futuro e spingo l'acceleratore. Anche se a volte può essere duro, lo giuro, sicuro non scappo altrove. Resto qua, col sole sulla testa. Lui cammina con me pure dentro a sta tempesta. In questa vita grigia poca voglia di far festa, ma finché brillerà qualcosa ancora resta. E questa va per chi ci sta, per la mia città. Al sole che cammina con me, io scrivo per necessità. Successi, nah, per tutti quei fratelli che qua ho già perso nel mare. Sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, con me. Sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me. Questa va per te, per chi c'è, chi cammina con me. Per chi porta il sole pure dove il sole non c'è. Per chi è dentro e chi è fuori col vento e chi è errore nei giorni peggiori. È sempre più insieme a me, a me. Per quando siamo insieme, quando siamo soli. Oh, per quando tocchi il fondo, ti alzi in auto e voli. Sì, per quando sono distratto e di scatto, tu mi guardi e mi ricordi tutto quello che ho fatto. sotto strato, qui perché è così che sono fatto, e basta perché io sto sotto strato, però tu stai sotto e basta, per quando voglio scappare dalla mia città, quando sono lontano e voglio ritornare qua, perché non c'è da parlare, qua c'è da fare, come mai come fly, non mi posso fermare, ma per chi si sta, per la mia città, al sole che cammina con me, io scrivo per necessità, su sessi na, per tutti quei fratelli che qua ho già perso nel mare, sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, con me. Mentre sta macchina va avanti, io vedo il sole fra gli alberi e si alterna con le ombre distanti, è come fossero sguardi, e siamo sempre uguali, solo più distanti, alcuni sono dentro, altri solo passanti, e se ci allontaniamo per riabbracciarci, continuo a camminare nonostante i fattacci, e nonostante i fantasmi, sento il sole e i suoi raggi, il resto conta poco e cammino da solo, e lascio la tua mano per sentirmi un uomo, non so se volo, mi schianto, non so se rimpianto, ma vale la visione del mondo dall'alto, e quindi vago verso l'orizzonte, sorriso sulle labbra ed un bacio in fronte, e non è facile volersi bene, bisogna camminare non per forza insieme. Per chi si sta, per la mia città, al sole che cammina con me, io scrivo per necessità, su sessi na, per tutti quei fratelli che qua ho già perso nel mare, sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, ehi, la nostra musica cammina con noi, e camminerà sempre con noi, voi che ci avete accompagnato in questo viaggio in questi anni, camminate con noi. Tutti quelli che hanno lavorato con noi su questo disco, che hanno suonato con noi sui palchi di tutta Italia, camminano con noi. Tutti quelli che ci hanno chiamato a suonare e che ci chiameranno a suonare, tutti quelli che hanno comprato il nostro disco, camminano con noi. Bless, il rap cammina con noi. Broca Speaker Crew 2012. We'll be right back. Allora, sulle note di Fortress Europe arriva un messaggio decisamente in tema con anche il testo della canzone. Danilo ci scrive: un saluto a tutti gli antirazzisti perseguiti per la manifestazione Mai con Salvini, Refugees Welcome. Ciao Fra, buona trasmissione. Allora, ringrazio per il messaggio, saluto, ricambio saluto a Danilo, ma in particolare a tutti i compagni e le compagne che, come ricordavamo prima, quest'oggi stanno affrontando il tribunale del riesame, quindi mi auguro, insomma, che già di oggi possa arrivare qualche buona notizia rispetto alla loro liberazione, o perlomeno, insomma, un'attenuazione delle misure a cui sono attualmente sottoposti. Allora, riprendiamo con la trasmissione. Prima di spostarci a Palermo, andiamo a commentare brevemente un altro aspetto, insomma, di quest'anno accademico che si appresta ad iniziare. Abbiamo accennato alla questione della buona università, ma c'è da dire che il governo Renzi, già dall'anno scorso, ha in un certo senso messo mano al mondo degli Atenei, seppur in maniera indiretta. Come insomma molti ricorderanno, nei mesi scorsi è stato infatti modificato il metodo di calcolo dell'ISE, e anche insomma da queste frequenze avevamo già evidenziato come questo provvedimento di riflesso avrebbe portato, tra le altre cose, all'esclusione da tutta una serie di servizi, e tra questi anche da quelli del diritto allo studio. Se appunto nei mesi scorsi l'effetto era ancora un po' in divenire, perché molti studenti erano ancora riusciti insomma a fare il calcolo dell'ISE con il vecchio metodo, quindi a rientrare nei parametri, diciamo, standard, per quanto già ampiamente ridimensionati da tutti i tagli degli ultimi anni, con questo nuovo anno accademico, quindi col nuovo ISE pienamente ormai a regime, si iniziano a intravedere appunto gli effetti di questa introduzione. E anche su Repubblica, appunto, nei giorni scorsi è uscito un articolo piuttosto approfondito che titolava in maniera piuttosto chiara: borse di studio, migliaia di studenti esclusi per il nuovo calcolo dell'ISE. Proprio in questo periodo, infatti, in tutta Italia stanno scadendo i bandi per l'ottenimento delle borse di studio, e in qualche caso il tutto si è già concluso ad agosto. E tirando quindi le prime somme, ci troviamo di fronte a un cambiamento di portata comunque piuttosto importante. Si parla di migliaia di studenti che da un anno all'altro si sono ritrovati ad essere considerati più ricchi, ecco, insomma, questo è il termine che viene utilizzato, pur senza aver guadagnato un centesimo in più, o magari con le famiglie alle spalle che si ritrovano nella stessa situazione dell'anno scorso, ma che vengono considerate appunto escluse. E in particolare sotto accusa è l'ISPE, cioè l'indicatore della situazione patrimoniale, per cui le case di proprietà vengono ormai calcolate non più a fini ICI ma a fini IMU, e quindi la rivalutazione è stata orizzontale, col risultato che chi fino a ieri era molto al di sotto della soglia dei 33.000 euro, che era quella stabilita come limite massimo per poter concorrere all'ottenimento della borsa di studio, oggi la supera ampiamente. E quindi, se molti si sono ritrovati esclusi, altri addirittura hanno rinunciato a fare richiesta, perché appunto non rientravano più nei parametri. E ovviamente quindi questo porterà a un'ulteriore, insomma, esclusione dai mezzi, insomma, di welfare studentesco, che appunto già negli ultimi anni è stato ampiamente ridimensionato da tagli e riforme che l'avevano reso già, insomma, qualcosa di molto difficile da ottenere, e che adesso viene ulteriormente ridimensionato. E questo, insomma, rientra pienamente in un disegno di progressiva esclusione delle fasce più povere dai percorsi di formazione superiore, quindi con appunto migliaia di studenti che non potranno più permettersi di andare all'università, con la creazione di atenei, insomma, di serie A e di serie B, quindi con università di lusso che sforneranno, insomma, le future elite, che comunque daranno un futuro già abbastanza spianato a chi potrà permettersi di frequentarle, poi degli esami fici in cui stipare tutti gli altri prima di insomma mandarli nella macchina della precarietà. Questo è un po' quello che ci si prospetta all'orizzonte, che in parte già all'atto, e che appunto questa riforma paventata della buona università, di cui il ministro Giannini è tornato a parlare proprio ieri, non farà che acuire. Di questo quindi parleremo tra pochissimo con i compagni e le compagne di Palermo, che appunto nei giorni scorsi sono stati impegnati in momenti di confronto e di discussione rispetto all'autunno a venire. Quindi io faccio ancora una breve pausa musicale mentre li contatto telefonicamente. Sta, provo il microfono, never give up. C'è bello acceso, tele spente, esplode su un boom bap. In città la milizia si vizia, colpi in faccia, morti in piazza, in sabbia non la notizia. Cerchio di fumo ipnotizza, non respiro se l'aria mi vizia. Mentre fanno il tuo giro la ruota dell'ingiustizia. La massa non realizza, si uniformizza, si anestetizza col video la sua immondizia. Impazza la curva sulla scissa, con cui mi fermi analizza. Io sull'obiettivo spengo la sizza. Ho un'identità fittizia sulla strumentale, sto dalla parte del criminale, se non siede al criminale, sputo sul Quirinale, scomunico il cardinale, comunico slang illegale, per chi non si arrende al male, sguaina la katana, fuma, ketama, spingo il sabro antimadama, giunta urbana la strana del drama. Mondo che crolla ne va di va. Odio nel serbatoio, testa di cuoio. Già, noi, generazione post PR, figli della bomba. Voi, generazione di PR, figli della bamba. In strada sbirri e t'attacca, guerriglia ferro più spranca. Marci in divisa, la squadra della uno bianca. La gente stanca, il fuoco ne carbonizza il tantra. Cresce col sangue, vuole il piombo come nei 70. Lotta di classe tra figli e masse. La rivoluzione amplificata dalle vostre casse. Killer drago argentino dal tuo subwoofer. Vivo se scrivo in giro clandestino sulla Mini Cooper. A Milano, giustizia come va bene. Ogni fame assassino, uno spirro fedele al dovere. Fra, dalle galere alle botte nelle pantere. Come misera la vita negli abusi di potere. Rimenate tra bottiglie sfasciate, su coordinate criptate, sere primo non rivolte, alla Tiananmen, noi prepariamo fuga a mezzanotte, nella fase REM, chi mistifica, mistica, all'aggressione lirica, il microfono spara, fagli perizia balistica, sono le forze del disordine, il suono ultraviolento dentro l'etere, il fuoco divampa, non lo puoi spegnere, la resa non è la mia cosa, no justice, no peace, cani da presa, con la strofa che pesa, il mio stato mentale non si piega, non fa media, il media trasforma merda in oro, come Remida, io non ci credo, fra, nemmeno, siamo il colpo in canna, col caricatore pieno, guarda la vita fra, va via in un attimo, il mondo va a puttane, cane mangia cane, e io mangio per ultimo. Sì. Sì. Paura. Danno. King Curci. Jack LaMotta. Napoli. Roma. Colle del Fomento. Mutagenix. Ordine del Pariamento. Sì. Way. È un mondo difficile. E tu lo sai. È un mondo difficile, bro. E non lo so se lo sai. E fai mo. Sì, sì, sì, sì. Ah, ah. Ok, vediamo, c'è il lavoro, il decoro, l'inflazione strutturale, la corsa all'oro e la corsa al nucleare, un moderno far west con nuovi indiani da prendere e sfruttare, questo è il cardine dei piani del loro ordine mondiale, è un mondo totalmente artificiale, il maschio palestrato col quadrato inciso nell'addominale, l'occhiale panoramico, la femmina fatale, rifatta più dei chak venuti male, la sacra famiglia con la figlia da sposare sull'altare, il padre e la madre da onorare, il peccato originale, la religione, i tempi puri, Gesù Cristo, la Madonna, Dio o chi per lui, tanto è tutto uguale ed è pesante. gas esilarante, chirurgia sperimentale. In questa assurda corsa senza fine, dritti verso il gran finale. Serve un cambio di programma, non un cambio di canale. Quando penso a questo mondo immenso, privo di buon senso, motivo di dissenso, ho i brividi. Propenso che questi ominidi mi girino attorno in senso rotatorio, mentre parlano di crimini di guerra, ferra questa terra, testa che non si arresta, il sangue resta tra le fila di chi erra e piange, lance, piovono, sfreggiano le guance, un sogno che si infrange, non si trovano soluzioni, pressione in troppe situazioni, shh. Sibilano i tardi sopra le fazioni, gli stendardi, proiettili vacanti, Babilonia in fiamme. Se ne esco indenne da trentenne, non Matusalemme, portatemi in dono gemme, perdono fino a Gerusalemme, al muro del pianto, sicuro che intanto, lo giuro su quanto, a questo mondo di più caro è un faro, mi conduca verso un nuovo incanto, con accanto chi intorno un canto, fin tanto sarà chiaro. Vai mo, è un mondo difficile bro, perciò vai mo, purtroppo il nostro palcoscenico e gli attori dello show. Bella sì, sotto lo stesso cielo, Roma e Napoli, tirando colpi alla bomba da lì, funziona così per stare qui, lo so. Mi chiami cattività e questo zoo, devi tenere gli occhi aperti per non finire KO. È così, per non apparire tra i necrologi oppure al PG, devi mostrare i denti qui e questa è la PC. È un mondo brusco e ti colpisce dritto in faccia, e che ti piaccia o meno, c'è che non si scende da sto treno. La caccia è aperta dal giorno zero, se fuggi sul sentiero per bloccare anche l'ultimo bracconiero. Qua conta soltanto il dinero, un contante muove tutto e il tutto è tanto amaro quanto vero. La gente corre dritta al cimitero, vende la sua vita a rate e poi con due serate brucia lo stipendio intero. Prende a male per davvero, soldi sui visi, popoli divisi dai confini del nuovo impero. Polvere bianca ed oro nero, mette la gente a ranca, stanca, col cervello sempre più leggero. Leggere bene le avvertenze, è un mondo che ti impreda nelle peggio dipendenze. Elimina le differenze, ti crea esigenze e bisogni, e poi ti fottono mettendoti in appalto tutti i sogni. Sì. Nel mezzo del cammin della nostra esistenza, la verità è stata finalmente manifesta, la mia curiosità. E se per afferrarmi un po' attraverso la asperità, mi chiedo se un giorno qualcuno dei miei sogni si avvererà. Basta un flash e tutto finisce in modo catastrofico. Mondo difficile, dove un batterio microscopico ti fa briciole. È tutto gracile e fragile, e anche se sei agile, meglio uscire con fucile sotto al sedile. Questo mondo instabile o porcile, questa vita miserabile per l'avvenire. Puoi sentire le grida, la tristezza, la sofferenza e il progredire. Ti puoi prodigare quanto vuoi, ma per i cazzi tuoi, comunque su volteggia un avvoltoi. E dentro sento a stento un cuore pulsare, un amore bruciare. Dottore sto male, la prego, mi aiuti e estragga questo pugnale. Sono colto da questo fobia all'aperto, porto una maschera, viso scoperto, mi aperto, siamo in un deserto sotto legge marziale. Vai mo, è un mondo difficile bro, perciò vai mo, purtroppo è il nostro palcoscenico e gli attori dello show. Bella sì, sotto lo stesso cielo, Roma e Napoli, tirando colpi alla mamma da lì, funziona così per stare qui, lo so. Mi chiami cattività e questo zoo, devi tenere gli occhi aperti per non finire KO. È così, per non apparire tra i necrologi oppure al TG, devi mostrare i denti qui e questa è la PC. Stasera si spera una fiamma sul grigiore, vedo il fumo della mia chimera. Cieli rossi e neri come di nubi spesse, come se un dio pazzo ce le avesse messe. La rinfusa del caso guai eterno, la chiamano entropia ma è un sinonimo d'inferno. Tutto il mondo è un grosso pasticcio, si è mosso il feticcio, ha dimostrato che è molliccio. I giganti si godono l'ossigeno, il formicaio soffre, sembra sempre più ridicolo. Vite dispari, mai lotte ad armi pari, sai che i sicari sono veri tra i sipari. Il tubo catodico spaventa la mia retina, ma non l'impressiona perché senza poetica. I racconti della gente urlati nelle orecchie, dal freddo dei palazzi sento storie mai vecchie. Oggi si soffre, spero sia per sorridere, il dolore che si investe per migliorare a vivere. No, e alla fine non è giusto, se c'è un significato al sapore del disgusto, un senso che si perde mentre passano le ore, e a tutti spetterebbe solo un mondo migliore. What this world is coming to? What this world is coming to? aspettando la battaglia. Lucidi come il cromo delle armi, ma immobili. E sto tornando ad infottarmi. Mangio i miei pensieri, oggi non è ieri. Digerisco il mio passato nella morsa degli alfieri. Tutti condottieri, ma non esercito. Niente divise ed ognuno col suo compito. Chi muove chi è mosso, tutti a mento alto. Per colpire senza rimorso, rimosso. Il pensiero del giudizio, ricerca dizionario. Il concetto di armistizio, costruiamo nuova Zion prima di Babele. Il tempo stritolato nella presa delle chele. No telecamere, né occhi che mi scrutano. Solo amici in giro e nemici che mi stimolano. Anche gli occhi hanno un sogno e non ne ordine. Il mio cuore segue vuota nelle zone più recondite. Testa ferma, il pensiero più vicino a me. Interiore umide, la carne che si chiede che fare. Migliorare il nostro compito. Una partenza razza, un atterraggio mai morto. E 57 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Dopo la pausa musicale torniamo in onda con Parole Ribelli, e lo facciamo come preannunciato con una diretta telefonica. Dovremmo avere a questi microfoni Giuditta del collettivo universitario autonomo di Palermo, che saluto e ringrazio per essere qui. Ciao Giuditta. Ciao a tutti. Allora, con te volevamo intanto partire da una buona notizia che abbiamo appreso la scorsa settimana sull'occupazione di un nuovo studentato a Palermo, un'esperienza a cui la vostra città insomma non è nuova. Ricordiamo l'occupazione di qualche anno fa dell'Hotel Patria, a cui adesso è seguita questa nuova esperienza. Ma ti lascio subito la parola per raccontarci insomma il percorso che ha portato questa occupazione e ovviamente come stanno andando questi primi giorni di, immagino, lavori di rimessa a posto dello spazio. Sì, spendo giusto due parole sulla maniera in cui abbiamo lasciato l'HPO, l'Hotel Patria, che dopo 2 anni e mezzo di occupazione ci siamo ritrovati ad avere un tavolo di discussione con il presidente dell'ERSU, proprio perché prima, 2 anni fa, quando abbiamo occupato, avevamo messo alle strette l'ente regionale per il diritto allo studio, dicendo che noi ce ne saremmo andati solo ed esclusivamente quando in quello spazio sarebbero ripartiti i lavori per diventare uno studentato universitario. Così è stato. Dopo 2 anni e mezzo siamo stati contattati appunto dall'ERSU, come dicevo poco fa, e abbiamo accettato di riconsegnare le chiavi nel momento in cui abbiamo saputo che da lunedì, praticamente da questo lunedì, sarebbero ricominciati i lavori. Qualche giorno dopo, pochissimi giorni dopo, il mercoledì 9, abbiamo occupato questo nuovo spazio, appunto, che abbiamo chiamato Studentato Occupato Malarazza. È completamente in un'altra zona della città, perché l'Hotel Patria si trovava esattamente in centro storico, mentre lo Studentato Occupato Malarazza si trova in via Libertà, che è comunque centro storico, però un po' più decentrato in qualche modo, e si ritrova in questa in via Catania numero 2, ad angolo con via Libertà, che è la zona Liberty, diciamo, di Palermo, quindi anche una delle zone più bene, se così le vogliamo definire. Questo palazzo è anche un palazzo storico, perché era di proprietà della famiglia Florio, che è la famiglia che per anni, per tutto l'Ottocento e il Novecento, ha avuto potenza economica qui nella città di Palermo, e quindi anche per una questione culturale abbiamo deciso di occupare quello spazio che vedevamo abbandonato da anni. Non riuscivamo a capire diciamo di chi fosse, di che proprietà fosse quello spazio. Infatti nel momento in cui abbiamo occupato eravamo convinti che fosse di proprietà della regione. Qualche giorno dopo abbiamo scoperto che era di proprietà dell'ESA, Ente Sviluppo Agricolo, che appunto ha avuto gli uffici lì dentro fino al 2012, fino al 2009 praticamente, dal 2009 al 2012 l'ha subaffittato all'Agenzia Acque e Rifiuti. Fondamentalmente, dopo aver ospitato uffici, dal 2012 questo posto è stato abbandonato, è stato chiuso. Noi abbiamo pensato bene di occuparlo, perché anche se fino a poco tempo fa ospitava uffici, è un posto realmente enorme, ha 5 piani con 2 ale diverse, potrebbe ospitare realmente una quantità di studenti che in questo momento non riusciamo neanche a quantificare, però diciamo rappresenta un buon punto di partenza per innanzitutto per l'anno politico e soprattutto come nuovo spazio da aprire alla città. Abbiamo infatti a questo proposito già fatto alcune iniziative di apertura alla città, perché proprio essendo un palazzo storico e di importanza appunto storica e culturale, abbiamo deciso di aprirlo facendo anche degli interventi sul giardino esterno che dà direttamente su Via Libertà, quindi abbiamo fatto un'iniziativa un po' anche così semplicemente molto ludica appunto e semplice, che era quella recuperiamo il giardino di Palazzo Florio, esortando gli abitanti del quartiere, anche gli studenti, a portare una pianta per far rivivere il giardino, insomma un'iniziativa semplice per fare una prima apertura dello spazio della città. In questo momento ci stiamo organizzando appunto a livello logistico per sistemare i primi piani, per fare le pulizie, siamo una cinquantina di studenti del CUA di Palermo e abbiamo anche avviato da questa settimana la campagna all'interno dell'università per fare in modo che le stanze possano essere fruibili a tutti gli studenti che ne hanno bisogno. Beh, quindi mi sembra di capire che finora la risposta anche del quartiere sia stata positiva all'apertura di questo nuovo spazio, anche insomma quello che raccontavi rispetto ai vari passaggi di proprietà credo sia una storia abbastanza emblematica delle migliaia di spazi abbandonati che ci sono in tutta Italia e che raccontano appunto un po' la storia di tante altre occupazioni. Esatto. Senti, dicevi prima che questo è stato anche un modo per iniziare l'anno politico che, a quanto leggo, insomma, a Palermo è partito già a pieno ritmo ormai da alcune settimane. Abbiamo visto nei giorni scorsi anche di una serie di iniziative all'università che avete fatto contro il numero chiuso e che si sono svolte anche in contemporanea con l'Assemblea Nazionale dei Collettivi Universitari che era stata chiamata appunto a Palermo per il 3 e il 4 di settembre. Che si è aperta in particolare con un'analisi di questa di quella che per ora è una bozza di questa riforma della buona università, ma su cui appunto ieri nel primo giorno di scuola il ministro Giannini è tornato, insomma, dopo aver cantato ancora una volta le lodi della riforma della buona scuola, ha affermato chiaramente che appunto dopo la buona scuola i tempi sono maturi per una riforma anche dell'università. Quindi magari ti lascerei la parola su insomma come si sono sviluppate le due giornate, quali temi sono stati toccati, insomma quali sono un po' le prospettive di mobilitazione per quest'anno che potrebbe insomma vedere insomma un po' risollevarsi quello che finora è stato un ambito un po' silente negli Atenei. Sì, come dicevi tu bene, sì, abbiamo aperto l'anno con questa Assemblea Nazionale, questa due giorni che si è incentrata fondamentalmente su uno studio anche interno, se vogliamo, di quelle che sono le pratiche che dovremmo rimodulare, che dovremmo scompaginare per ricominciare ad avere un intervento più pronto e più proficuo all'interno della composizione universitaria. Sicuramente quello che è sembrato uscire rispetto alla buona università come ipotesi, come prospettiva, è che probabilmente il governo metterà in campo la stessa modalità che ha messo in campo per quanto riguarda la buona scuola, quindi sicuramente non si concentrerà sull'autunno, ma farà uscire questa riforma nella seconda parte dell'anno, in primavera, insomma, per trovare un po' a smorzare la possibilità di mobilitazione da parte degli studenti. Per i discorsi che abbiamo fatto durante l'Assemblea Nazionale, come dicevo poco fa, è stato appunto uno studio sia interno che esterno, nel senso che abbiamo cercato di confrontarci su quella che era la composizione e il soggetto universitario sul quale ci ritroviamo a intervenire e quindi abbiamo aperto l'Assemblea con un primo tavolo sulla soggettività, che nel pomeriggio del 3 settembre è continuato parlando dei territori. Questi primi due tavoli erano strettamente connessi tra di loro, le varie città hanno portato un punto di vista, devo dire, anche abbastanza organico e strutturato rispetto a quelle che erano le situazioni presenti in ognuna delle specificità, ovviamente per differenze territoriali non possiamo stabilire una linea unica di intervento su tutti delle città, proprio perché anche per il discorso di università di serie A e di serie B, no? L'università di Palermo per esempio avrà differenze molto profonde con l'università di Torino, immagino, proprio per, a livello di composizione che si ritrova, certo, a livello di fondi che hanno le università, insomma ci siamo ritrovati a fare anche questi ragionamenti. Rispetto al secondo giorno, il secondo giorno si è aperto appunto con una contestazione che abbiamo fatto ai test d'ingresso, abbiamo fatto un'azione di blocco simbolico degli ingressi del polo didattico, che era il luogo dove ci sarebbero stati i test d'ingresso, e dopo una mezz'ora diciamo di megafonaggio e volantinaggio lì davanti allo spazio, siamo tornati a lettere ad aprire la seconda giornata di Assemblea Nazionale, seconda giornata che anche se è stata molto ricca, perché abbiamo parlato nella prima mattina di comunicazione e nel pomeriggio invece di saperi. Per quanto riguarda la comunicazione, ciò che è uscito è molto interessante, è stato di inserirsi pienamente all'interno di quelli che sono gli strumenti di comunicazione della controparte e provare a curvarli per quelli che sono poi i nostri interessi, quindi diciamo sicuramente questo è un primo passaggio, ma anche provare con un'analisi, con uno studio che dovrà essere molto più organico, che troveremo anche a approfondire nei prossimi appuntamenti in cui ci vedremo, sarà quello di costruire un metodo di comunicazione che sia pienamente di parte. Ovviamente non è semplice, è molto complesso, ma diciamo che quello dovrebbe essere l'obiettivo per riuscire a trasmettere al massimo i nostri contenuti senza doverci legare per forza uno strumento della controparte. Per quanto riguarda i saperi, lì il ragionamento è stato molto dibattuto, molto discusso, proprio perché si presentava come il tavolo più spinoso da affrontare, proprio perché la questione dei saperi ad oggi è quella che trova nodi che difficilmente riescono ad essere sciolti nel tempo di un tavolo di workshop. Abbiamo da tutte le città espresso diciamo dei pareri molto anche simili rispetto a quelli che sono i saperi, rispetto a come vengono trasmessi i saperi oggi all'università. Abbiamo parlato di tecnicizzazione del sapere, di disciplinamento della forza lavoro, abbiamo parlato di un sapere che ormai è sempre più aziendalizzato, e per cui anche qui, come nel tavolo della comunicazione, ci siamo ritrovati a ragionare sulla necessità di dover cominciare a trovare un sapere di parte anche in quel caso, cosa che ancora di più della comunicazione risulta difficile e complessa, ma che sicuramente se proviene da uno sforzo collettivo non può essere impossibile. Ce lo poniamo anche come obiettivo per i prossimi appuntamenti in cui ci vedremo. Non ci siamo lasciati con delle date fisse di mobilitazione, perché per i ragionamenti che abbiamo fatto sappiamo che è importante in questo momento ritornare all'interno dei contesti universitari da studenti, nel senso che abbiamo utilizzato anche banalmente l'espressione dello svestirsi della veste di militante e rivestirsi della veste da studente, nel senso di cominciare ad avere sempre più internità all'interno dei nostri contesti, proprio per riuscire a determinarli. In quel caso là l'impegno che dobbiamo avere è quello di inserirci all'interno di ogni occasione di mobilitazione, anche piccola, anche emergenziale, per preparare un terreno fertile per una mobilitazione che speriamo si darà, appunto, che è quella con la buona università. Sì, sicuramente quella che citavi tu è la sfida maggiore in questo momento, anche perché penso insomma alla composizione che ci troveremo davanti a partire da quest'anno accademico, sarà per la maggior parte di studenti che negli ultimi anni non hanno vissuto, non hanno attraversato mobilitazioni, quindi in un certo senso devono un po' ripartire, non, insomma il ciclo del No Gelmini nelle sue due fasi del 2008 e del 2010 è ormai visto un po' esaurirsi anche quella composizione che ormai è al di fuori delle scuole, dell'università, quindi si tratterà a tutti gli effetti di fare un lavoro, come dicevi tu, anche molto importante sulla comunicazione, che è poi anche uno dei insomma degli aspetti su cui questo governo sta insistendo di più nel cercare di insomma sponsorizzare i propri provvedimenti. E anche rispetto alle mobilitazioni credo varrà anche quello che dicevi tu rispetto alle differenze territoriali, sicuramente ci sono delle linee di tendenza generali che investiranno tutti i territori, ma credo che anche appunto le prospettive di mobilitazione andranno calate e centrate rispetto alle esigenze e alle specificità di ogni città. Sì, Anche perché, per esempio, sono usciti molti temi, che ne so, più alcune città si concentreranno molto di più sul discorso del nuovo casco Lisee, altre sul discorso dell'accessibilità, altre sui bisogni di alloggi e borse di studio per gli studenti, proprio come dicevi tu, in base alle città, in base ai bisogni che ci sono all'interno di quelle città, poi lì si andranno a costruire quelle piccole mobilitazioni di cui ti parlavo prima. Assolutamente, nel frattempo ovviamente terremo anche gli occhi aperti per quel che riguarda invece le scuole superiori, che già invece si apprestano a scendere in piazza il 2 di ottobre. Sicuramente anche in quel caso sarà comunque necessario costruire un discorso che sappia tenere assieme appunto buona scuola, buona università, esatto. Jobs Act, e quindi dare insomma un quadro generale rispetto all'azione di questo governo su una composizione giovanile in generale. Sì. Anche noi abbiamo ragionato sull'unificare appunto le lotte di studenti delle scuole e studenti universitari, proprio perché sulla scia del Jobs Act e della buona scuola, diciamo che il mostro che ne esce fuori è quello della buona università, per cui si possono mettere benissimo insieme come rivendicazioni, anche come discorso da portare in piazza, quello di essere contro le riforme del governo Renzi in generale, come dicevi benissimo tu, quindi anche rispetto a una prospettiva di mobilitazione ci ritroveremo sicuramente a ragionare sull'unificare proprio le lotte, sia sul campo della formazione studentesca che su quella universitaria, ma penso anche alla componente dei docenti, che un minimo diciamo si è dimostrata anche ostile in qualche modo, seppur non direttamente conflittuale, però diciamo sicuramente ha presentato delle possibilità interessanti. Certo, va bene, io per ora ti ringrazio, direi che hai dato un quadro insomma molto completo e chiaro di queste prime giornate a Palermo, speriamo insomma intanto per ora un in bocca al lupo con il nuovo studentato. Grazie. E speriamo di risentirci presto insomma con aggiornamenti su questa situazione. Per ora ti ringrazio. Grazie. E mando un saluto a tutti e a tutte. Grazie, saluti a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, questo appunto per quanto riguarda l'università, un po' più dal punto di vista nazionale. Adesso facciamo una pausa musicale, poi vado a dare anche qualche aggiornamento rispetto alla situazione delle scuole superiori, che da ieri hanno ricominciato a riempirsi. Rendo la paura un'armatura di carta. Ne prendo cemento e lacrime, ottengo la redenzione, il vento sbarra le finestre, una canzone che sento ogni momento e parla di rassegnazione. L'illusione resta al centro della rete, se sta musica evasione su un'altra sirena, fai quarantena contro ogni revisione, pronto sia alla soluzione che allo sconto di pena. La punizione estrema, legate il diritto, lo schema è prima piegarti, poi farti rigare dritto, siccome sei il problema devi restare zitto, abituarti a sta catena che ti ha appena sconfitto, perché il sistema che ti ha impedito sta ferita in testa, solo un tragitto mi basta, una via d'uscita, questa è la mia vita, ho scritto il necrologio, fine della partita e ho trafitto l'orologio. Ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Rendo la paura un'armatura di cartone, prendo cemento e lacrime, ottengo la redenzione, il vento sbarra le finestre, una canzone che sento ogni momento e parla di rassegnazione. L'illusione si alimenta i tuoi valori quando il mondo è una cella, l'isolamento è fuori, la folla di impostori, aspetti i riflettori, controlla, chi controlla i controllori, viaggi interiori, una stella oltre il confine, la corona d'allori accanto a quella di spine, la iena che deprime a priori, l'attitudine, la fine, cena gli errori, la solitudine che ignori, davanti a mille spettatori, conserva la gratitudine, tempi migliori, passioni, tuo fioccano sms al 346-667-3263, il primo di Eugenia, redattrice di Interferenze, che scrive: Abedda, bentornata sulle libere frequenze, sempre in ascolto. Allora ringrazio per il messaggio e per anche la fedeltà di ascolto alla trasmissione. Invece l'altro messaggio, una richiesta musicale, ci scrivono: in conclusione di trasmissione sarebbe bello ascoltare Metal Carter con Pagliaccio di Ghiaccio, baci Er Principe. Allora più tardi vedremo di esaurire anche questa richiesta. Io vi lascio ancora un pezzo per fare un po' di pausa musicale dopo la diretta da Palermo, poi torniamo in diretta. Par nos paroles à des murs, tu verras qu'on sait les tenir. L'amiral enfant de la zone que la rue a su recueillir. Nos TN ont des bulldogs pour rebondir dans la galère. Élémentaire, un bon mental vaut mieux qu'une force monumentale. Opérafone, carotte de coque et rapat chaîne en or. Pour des sommes on t'assomme et on risque le mirador. Je suis brouillard, pour un résultat tu passes à polka. Tu connais la frappe du cœur et les anciens sont sous prise. Avec le mot d'or, le nôtre en or. Révolution multicolore, sous des sous un fusil sonore. On surgit pour que la parole soit plus verrouillée. On s'est mouillé pour mettre à mal les idées rouillées. Ici c'est Noaï, bordel, gros rap, bordel. D-Max, Pocket, Air Max, Poker, Chétan, Honnel, Frega, bon frère, Roroto, Hôtel, Molotov, Corvo. On vole du jour, après avoir fait un billet. Ambiance méga, avec maintenant dans le game on y est. Ils parlent de braquage, de cash, de cash, et veulent briller. Nous on débarque, on clash, on rap, et c'est plié. J'en place une pour le projet de Kenniston, Shootstar Black. Le micro c'est sa plume, tout pour le peuple, son barbal. Des gens comme on en fait plus, toujours à prôner le partage. Pendant qu'on parle de perso, de carnage. Black qui black, black, on rentre dingue avec un flow qui flingue. De dégaine sur le M, style shoot à coup de manche. Et renvoie de la vie, des commandos expérimentés. Et miné prend l'arme, mon high style en fait blaser. Si t'attends d'être pur, comme la colombienne. Mais l'argent prime, son emprisage, des clins d'œil comme une belle pute. La rage du peuple aux lèvres, j'en bave d'amour. Que l'état nettoie mes chocs, trop de béton, le ciel étoilé me choque. Second volet, voici le quartier, tous répondent à l'appel. Panier, opéra noir, quand j'ai l'air la plaine. Armée de maïs, secteur centre-ville. Écoute la tente de parler, écoute les ruelles de ma vie. Second volet, Marseille, les frères répondent à l'appel. Panier, opéra noir, quand j'ai l'air la plaine. Secteur d'envie, loin de votre abondant. Les nouveaux, les anciens, écoute les MC de mon coin. Je suis pas une grosse canaille, demande à Kenny Arcana. Les gosses banales, Machiavel est un gosse qui en a. Opéra noir, la plaine, là où on se balade. Révolution urbaine et qu'elle est honte cara. La musique est une bise de nerf, mais aujourd'hui j'fais ça avec plaisir. Y'a que des braves qui rappent du cœur, tous munis du grand sourire. Auquel est soumis, le hip hop est la loi dans l'uni. Le respect est en nous, répond présent pour tout ça Kenny. Fais pas à peine jusqu'à mort ou la prison. Tous les jours dans le bâtiment, à croire qu'on est des maçons. La cause ouverte au monde, le combustant, les gants ça rappe. Trop dans les temps, appelle-moi, je t'en la cachant. Chose qui nous sépare, tu t'écartes de la rap. Le réfrère les écoutez pas, ils s'égarent. Dans des tas du rire, qu'est-ce que vous foutez là. Vos histoires ne viennent pas de vos vies. Si Soji fait gold, where they go, ça c'est la tuerie. Freestyle, punchline, centre-ville, massacre. Ma street team est d'attaque, la rythmique fracasse. Des soucis nous tracassent, donc ça finit en braquage. L'opéra à la plaine, le gondier dans les parages. Je signe la pétition via le coup de pouce de Kenny. Avec peu de flou, je délivre un rap cousse des putains. Street crédibilité, centre-ville c'est ma fibre. Délinquante, musique frère, sans trop rire c'est l'Afrique. On vient représenter le centre avec la rage qu'on a dans le sang. Dites-leur qu'on souffre pour que le sang soit plaisant. Tant qu'on se fait plaisir, que ça en famille. Écoute les frères et sœurs qui s'agitent. Ça vient d'en vivre, voici la grande à toute sa splendeur. Yeah, on a plus de temps à perdre, faut plus qu'on le tape à perdre. Le doigt sur la détente, ça tire des rimes en visant triste vos têtes. Crois pas que Marseille est dead, réglez bien votre antenne. Si ça bosse, bosse dans l'ombre, car y'a pas le chiffre, on est le nom. Lot of suffer, a lot of pain. The streets are all the same. Under the sun, under the rain. Everyone is dreaming of fame. C'est super produit dans le garage. 13 au démarrage. L'esquisse de retour, une sale équipe avec la rage. Yeah. Ça vient de Pulse, ça rappe de plus dans les parages. On rappe nos vies, on n'a pas le temps de faire le truc à l'arrache. Yeah, zone centre, ville ligne de canaille. Easy, Isaac en flip pour la mise à carna. Audio-tif, carnage, M6 en carna. Marseille, All-Star, 4 musiques, ma carna. On voit des rires, on fait des délits plus terribles. On accélère à la Messi, dès qu'on arrive on te fait signe. On dédicace les frères, tous les poteaux de la zone. Sur la tête de ma daronne que les boulons sont les assauts. Ce qu'on prend les voici quartier, tous répondent à l'appel. Panier, opéra noir, et quand je suis vers la plaine. Armée de maïs, secteur centre-ville. par terre, terre, terre, accélère l'air, l'air, l'air, on te monte en l'air, l'air, l'air, on vient de la ZON, se soumettre N-O-N, M-D-R, L-O-N, niquer vos mères, allez l'O-M. Marseille, centre-ville, capitale des arrachés, tiens, demande à Kenny. Ici, c'est pas plus c'est vrai qu'à foutu traîne, la jeunesse veut de l'oseille. On te vend des sucreries, mais pourtant c'est pas des grosses. Pour Kenny, je représente, il faut que je tente, monte la pente, la raison pour laquelle je chante, maintenant j'appuie sur la détente. Ça vient de Marseille, là où les jeunes ont faim d'oseille, où maintenant faut dormir avec un col de prix des oreilles. Et je rentre sur le beat avec la rage d'un beat. Bang bang sonore, Kenny fait tourner la weed. Je suis le sourire de la jeunesse, à l'aise dans le 13. Le blast est nest, même si tu peux pas tester. Ici c'est Procos, du panier record music. En freestyle on représente les cousins, les cousines. Anti-état comme Kenny, nous on n'est pas des mousies. Nous j'aime nous, là on te bousie. Laisse m'entasser avant d'en placer une classe rude. C'est le land fuck, les losers ils glisseront tous. On démarre au quart de tour, s'en bat les couilles de tout. Le seul qui guide nos prix c'est le même tour. Si, j'entends parler les becs, mec. La jalousie, les lots de pute et les backrecks. Crazy c'est chaud pour de la gamme, ça se break. Les toxicois arrachent leur mère pour une seringue. Les combis d'ici deviennent de vrais sortirs. Ils ont plus de salive, va falloir provoquer la bavure. Le monde est ouvert, c'est peut-être pour ça qu'ils tournent par an. Au poste, on s'est gonflé, pire que des ballons. Big up l'assista, de l'opéra à la plaine. Diga au bois à l'aime, c'est comme ça qu'on m'interpelle. Venu bronzer avec le cœur, annoncer le 7h. Tous à la lumière, monsieur l'inspecteur. Toujours présent dans ces ruelles comme ce virus dans nos veines. La future plaie pour le rap game. La partie se joue à Marseille. Viens dans ma zone, c'est déjà dit. Veux faire les plaines, courge la bitch. R.A.Y. et ma expose un pic pour Kenny. Ouais, viens dans la machine, on est là, on résiste. Oye Benga, bienvenido dans la seconde esquisse. Pour les frangins, les sisters, les crânes rasés, les rastas. Toi si t'aimes pas les rues de Mars, toi tu viens pas plus basta. Second volet, voici quartier, tous répondent à l'appel. Panier, opéra noir, écorcher la plaine. Armée de Maïko, secteur centre-ville. Écoute la zone de parle, écoute les ruelles de ma vie. Second volet, Marseille. Les frères répondent à l'appel. Panier, opéra noir, écorcher la plaine. Secteur de l'envie, loin de votre abondin. Les nouveaux, les anciens, écoute les MC de mon coin. 12.23 sulle libere frequenze di Radio Blackout, anche per questa settimana ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Parole Ribelli, ma prima di lasciarvi vado a proseguire il discorso, insomma, di quanto dicevamo prima assieme a Giuditta di Palermo, e ci spostiamo invece per quel che riguarda le scuole superiori. Da ieri appunto gli studenti, insomma tra ieri e oggi, sono tornati sui banchi, ma per quanto riguarda appunto le scuole già si prospettano nuove mobilitazioni contro la cosiddetta riforma della buona scuola che è stata approvata infine durante il periodo estivo, dopo una serie di rimpalli tra Camera e Senato, riletture, emendamenti che di fatto hanno lasciato intatto quello che era il corpus fondamentale del disegno di legge, e in alcuni casi, se possibile, l'hanno addirittura peggiorato, dopo insomma mesi di fittizie promesse di ascolto e dialogo che non si sono viste da nessuna parte. Nelle ultime settimane, insomma, hanno tenuto anche banco le proteste di migliaia di docenti precari, famosi precari che con la buona scuola sarebbero stati assunti, che si sono ritrovati di fronte a veri e propri trasferimenti forzati, quindi al ricatto di rimanere appunto in questo limbo senza fine della precarietà, oppure a essere costretti a mollare da un giorno all'altro con pochissimo preavviso la propria città e trasferirsi magari a centinaia di chilometri di distanza per poter avere un posto vagamente più decente. Dal lato appunto degli studenti già si prospettano nuove mobilitazioni. Già all'inizio dell'estate dall'Assemblea Nazionale di Studaut era stata lanciata la data di mobilitazione nazionale del 2 di ottobre, e nella seconda edizione del campeggio studentesco che si è concluso questo fine settimana a Venaus, che ha visto appunto la partecipazione di studenti di diverse città italiane, è stata lanciata anche una data di avvicinamento per cercare appunto di tenere alta l'attenzione attorno a questa data del 2 ottobre, che sarà il 25 di settembre. Quindi la prossima settimana vedremo già una serie di iniziative di avvicinamento a questa data. E per quanto riguarda il 2 di ottobre, possiamo già anticipare che per quanto riguarda Torino l'appuntamento sarà alle 9 in piazza Arbarello, punto di ritrovo ormai ormai usuale per le mobilitazioni studentesche, quindi insomma a tempo debito ci preoccuperemo anche di dare spazio a questo appuntamento e insomma di farci raccontare come andrà. Quindi per quanto riguarda le scuole superiori, già dalla prima campanella insomma fervono i preparativi per le mobilitazioni e speriamo che siano insomma che gli studenti di tutta Italia si facciano sentire con forza contro questa riforma. E a questo proposito, durante l'ultimo pezzo musicale era arrivato un SMS che scriveva: buona scuola a tutti, non lamentatevi troppo, un periodo bellissimo se lo si vive con passione e convinzione. Beh, questo sicuramente, dopodiché un po' di sana rabbia piuttosto che lamentele, come si scriveva nell'SMS, è sicuramente un buon modo per iniziare questo nuovo anno scolastico. Quindi questi gli appuntamenti. Io invece adesso passerei a darvi qualche altro appuntamento in generale, come facciamo di consueto qui alla fine della puntata di Parole Ribelli. Partiamo dalla giornata di oggi e con l'appuntamento della seconda giornata della Carovana Femminista, questo gruppo di donne che sono partite ormai lo scorso 8 di marzo dal Kurdistan e stanno attraversando tutta l'Europa portando una serie di temi, organizzando momenti di confronto sull'antisessismo, sulla violenza sulle donne, sull'autodeterminazione alimentare e così via. E l'assemblea antisessista di Torino, che era nata a marzo appunto in seguito a un caso di stupro nel quartiere San Paolo, è riuscita a organizzare insomma una tappa di questa carovana anche a Torino, una delle ultime tappe di questa carovana che è arrivata ieri da Roma nella nostra città. Ieri c'è stata appunto la prima giornata in Largo Saluzzo, mentre oggi l'appuntamento si sposta in Valle di Susa. E, l'appuntamento inizia proprio tra poco, perché dalle 13 ci sarà un picnic al presidio di Venaus, ma siete ancora in tempo per raggiungere gli appuntamenti più importanti, che inizieranno dalle 14, quando ci sarà un'assemblea dibattito sulla resistenza e la lotta Notav, con alcuni incursioni sulla resistenza delle donne curde del Rojava. Ricordiamo che oggi è una giornata importante anche a livello internazionale di solidarietà con la lotta curda. Anche durante l'info sono stati dati aggiornamenti insomma con i compagni e le compagne in questo momento si trovano sul posto, quindi sarà l'occasione insomma per connettere ancora una volta l'esperienza valsusina con quella dei curdi, e in particolare parlando anche del protagonismo che le donne hanno all'interno di queste esperienze di resistenza. A chiudere la giornata ci sarà poi l'appuntamento delle 17.30 a Giaglione per una passeggiata verso il cantiere di Chiomonte. Quindi questo per quanto riguarda la Carovana Femminista. Su Facebook trovate tutte le informazioni del caso digitando Carovana Femminista Torino 16 settembre 2015. Domani ci sarà poi la giornata conclusiva dedicata invece al tema dell'autodeterminazione alimentare, che vedrà l'appuntamento al Gabrio dal primo pomeriggio fino a sera. Quindi questo per quanto riguarda questo appuntamento. Vado invece a prendere l'agenda di Blackout. Sulla giornata di oggi non vedo altre cose segnate, quindi andiamo a domani, mercoledì 16 settembre, al Mezcalo Occupato, cena bella vita, porta quello che vorresti trovare, al Parco della Certosa di Collegno. Il già ricordato appuntamento al Gabrio. Saltiamo poi a venerdì, perché non vedo altri appuntamenti nel mezzo, al Barocchio Squat, cena bella vita, a seguire concerto Tutti Pazzi a partire dalle ore 23. Si alterneranno sul palco Rancore, Flick dalla Tête, ieri Bovril e Mucopus, spero di aver letto tutti i nomi giusti. Ricorda tutto bella vita al bar Sei Tu, strada del Barocchio 27, Grugliasco. Vieni a divertirti, a portare la tua solidarietà al Barocchio sotto sgombro. E a questo proposito ricordo, anticipo già anche l'appuntamento poi della settimana successiva con il corteo di sabato 26 settembre, che partirà da Piazza 18 dicembre, ma insomma da qui al 26 ci sarà modo di dare il dovuto spazio a questo appuntamento cittadino. Io vi lascio ancora un pezzo musicale, poi mi preparo per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. V-

chiamami, spero tu non sia in viaggio. Se non mi trovi son fuori, lascia un messaggio. Dimmi adesso che farai, vai o resta. Ma fammi capire che ti passa per la testa. Qua ogni giorno una battaglia, ed è normale se si sbaglia. Che farai, vai o resta. Ma metti a fuoco solo quel che ti interessa. Là puoi ripartire da zero, ma se ti fa sentire vivo verrai. Capire che ti passa per la testa. Qua ogni giorno una battaglia, ed è normale se si sbaglia. Che farai, vai o resta. Ma metti a fuoco solo quel che ti interessa. Là puoi ripartire da zero, va. Se ti fa sentire vivo il vero fra. Allora, per rimanere in tema di appuntamenti, prima di chiudere ve ne ricordo ancora uno, quello con GASP, acronimo che sta per Giornate Antisessiste dello Sport Popolare, un appuntamento che si terrà su tre giornate, dal 25 al 27 settembre al Centro Sociale Gabrio, che vedrà alternarsi momenti più pratici e ludici e altri momenti di discussione. Il programma è molto ricco, quindi vi invito ad andarlo a vedere. Trovate sia l'evento su Facebook sia il blog se cercate appunto GASP, e da ieri è online anche lo spottino che qualche DJ di Radio Blackout si è premurato di creare, quindi ve lo faccio ascoltare, poi nei prossimi giorni daremo maggiori dettagli sull'iniziativa. GASP, Giornate Antisessiste di Sport Popolare. Tre giorni di sport, dibattiti, musica, zuffe, cibo, scommesse e socialità consensuale contro il patriarcato. Al CSA Gabrio di via Emilio 42, il 25, 26 e 27 settembre. Box, Thai, pole dance, rugby, calcetto, yoga, autodifesa, lotta a terra e nel fango, workshop, allenamenti e seminari e molto altro. Vieni a sudare con noi. Lo sport è un gioco. Fallo antisessista. Allora, su questo spottino io anche per questa settimana vi saluto. Tra pochissimi minuti andrà in onda il GR di Blackout. Non ho notizie di cattivi pensieri, per ora non vedo nessuno al di là del vetro, quindi non mi sbilancio in previsioni. Insomma, in questi primi giorni di settembre il palinsesto sta ricominciando a popolarsi dopo la pausa estiva. Per quanto riguarda Parole Ribelli, noi possiamo darvi appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 10.45 alle 12.45, come sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Per ora un saluto e un augurio di buona giornata e l'invito a rimanere sintonizzati sui 105.250. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca e ci risentiamo martedì prossimo.